Professore, sul sito della Fondazione ho letto una frase, con cui mi piace aprire la nostra intervista. Tutti noi abbiamo il dovere di credere nel futuro. Sì, esattamente. La scienza, come tutti sanno, ha un linguaggio universale ed è una forza di pace, appunto perché non conosce barriere né politiche, né religiosi, né razziali, di nessun tipo. E quindi il nostro progetto è quello, un progetto di vita, mentre e quindi di pace. E mentre dobbiamo inevitabilmente, proprio a questo riguardo, opporci a ogni forma di violenza. Questo è il principio, diciamo, concettuale, tenendo conto che tutte le ricerche genetiche e antropologiche dimostrano che nel nostro fondo, il nostro DNA ci dà dei messaggi di pace e non di morte. Infatti il DNA vuole che noi manteniamo viva la specie, che procreiamo, che ci preoccupiamo delle generazioni future e che quindi siamo per costruire e non per distruggere. Quindi noi ci opponiamo a ogni violenza e ovviamente per opporci a ogni violenza dobbiamo opporci anche agli strumenti della violenza, cioè alle armi. Professore, ci vorrebbe introdurre brevemente i temi principali della terza conferenza mondiale di Science for Peace? Ecco, proprio partendo da quello che ho detto, noi stiamo sviluppando delle linee abbastanza importanti di azione per il futuro. Come dicevo, combattere gli armamenti. Combattere gli armamenti vuol dire innanzitutto trovare un modo di rallentare i finanziamenti all'industria delle armi. Quindi abbiamo costruito e stiamo andando avanti un codice etico per le banche in modo che ci sia una consapevolezza di come le imprese che costruiscono le armi devono essere finanziate con molta attenzione e con molta verifica. La seconda azione è quella, sempre nell'ambito antiviolenza, di combattere contro la pena di morte. Stiamo facendo un'azione capillare in tutto il mondo perché avere un paese che ha la pena di morte legittima in fondo, istituzionalizza l'omicidio. L'omicidio diventa un affare che lo Stato lui stesso esegue, quindi in qualche maniera protegge. Quindi è proprio un'educazione che va in linea opposta al nostro pensiero. La terza linea è quella di cominciare a addestrare i giovani non ad uccidere, cioè servizio militare, per esempio le forze armate, ma a missioni di pace. La quarta è quella di un'azione concreta in Europa che stiamo studiando insieme a Emma Bonino e a tanti altri diplomatici, di vedere, di eliminare le 27 forze armate dei 27 paesi europei per fare un unico esercito europeo. Questo ci farebbe risparmiare 250 miliardi di euro. Quindi per l'Europa sarebbe una manna. Ed è una cosa inevitabile che perché questi eserciti erano nati nell'Ottocento per difendere i nostri confini, ma i confini in Europa, per fortuna, ormai si sono. Non hanno più bisogno di essere difesi. Quindi abbiamo una quantità di progetti, ulteriori progetti sono quelli di educazione nelle scuole, un altro grande progetto quello di rimuovere le cause dei conflitti, quindi la fame nel mondo, quindi la mortalità infantile, la denutrizione e la povertà. E infine un altro argomento importantissimo è quello di ridurre al minimo i danni degli integralismi religiosi. Integralismi religiosi e fondamentalismi portano a dei conflitti apertamente tra religioni o in maniera subdola tra paesi con religioni diverse. Quindi programmi sono tantissimi, naturalmente. Professore, programmi tantissimi, molti progetti, ma Science for Peace ha ottenuto risultati concreti, risultati che sono stati già realizzati e direi molto significativi. Sì, i risultati concreti sono in alcuni campi, come ho detto, il codice bancario, l'altro per esempio è l'aiuto nella scienza e nella evoluzione civile nei paesi invece adesso che sono in fase di conflittualità. Ecco, in Afghanistan per esempio abbiamo creato e stiamo creando un grande centro a Herat per la diagnosi precoce dei tumori al seno, che sembra che sia lontanissimo dal tema della pace, invece è fondamentale, perché queste donne devono essere, o il mondo dei talebani non deve essere combattuto con le armi, ma deve essere combattuto con azioni di pace, azioni di solidarietà collettiva. Abbiamo altri progetti in Madagascar e abbiamo, ecco, soprattutto creato un movimento di dialogo tra le varie religioni. Quindi abbiamo una quantità di cose che stanno già realizzandosi. Professor Veronesi, io la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a lei. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, grazie.